possibile si potessero dire queste parole. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu. Al di là ci sei tu per me, per me. Soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me. Sei tu. Ci sei tu. In the kiss that I gave was the love I had saved for a lifetime. That I knew all of you was completely my love.